che succede? E comincia frigide. Esatto, fratelli. Con chi? Sono le tre. Con chi? Con chi? Con DJ Ariel. Beh, pronto, eccomi qua. Che bello è Frigider, Frigider, Frigider. 15:08, minuti primi. Si apre la porta del frigorifero. Va bene, allora per tutti gli amici d'ascolto questo è il vostro momento, il momento in cui potete chiedere qualsiasi cosa. Frigider! Oh, Frigider! Amici ascoltatori, allegria! Salute a tutti! Subissateci di fax, inviateci lettere, letterine, mega messaggini, tutto ciò che vi capita per la testa. Mandate sulla spedizione, ci sono stato, sono molto fiero di rispondere. Ci sono, decolla anche quest'oggi dal gigantesco studio di Radio Rock FM, l'astronave del rock and roll denominata Frigider. Abbiamo la mucca Camilla. Abbiamo Mister Trombetta. L'esame di giapponese che dovevate fare, le due radioascoltatrici che mi hanno chiesto l'altro giorno, è andato? Funziona ancora Trombetta? Fatemelo sapere. Trombone cialtrone. Nemo il pesce d'aprile. Riccio pasticcio. Ci siamo tutti per la diretta di quest'oggi, 2 ore a nostra disposizione. Mettetevi comodi, ne sentirete delle belle. Ormai siamo già a metà settimana, quindi i nostri assi di inizio settimana ce li siamo già giocati. Appuntamento anche quest'oggi con il disco da scongelare, che con molto piacere vedo essere apprezzato da molti di voi là fuori. D'altra parte mi sono giocato l'asso, cioè farvi piacere con le Zeppelin 2 è anche semplice, no? Chiedo venia per quello che è successo nella sera di ieri. Mi riferisco all'appuntamento con Easy Rider, che da ormai qualche settimana è definire zoppicante è poco, ma non è colpa nostra, e ci eravamo galvanizzati perché l'altro ieri la puntata era andata intera, quindi pensavamo di poter tornare a farvi ascoltare la buona musica di Easy Rider, cosa che non è accaduta ieri sera. Si è inceppato, ripeto, abbiamo grossi problemi tecnici nella struttura di Rock FM che stiamo tentando in qualche modo di risolvere, che speriamo fortemente di poter risolvere nei prossimi giorni. La data che ci è stata promessa è giovedì questo, quindi speriamo da settimana prossima di poter tornare ad ascoltare Easy Rider in versione normale. Versione normale vuol dire un'ora tutta intera, non come sta accadendo in queste notti, cosa che accade al di fuori della nostra volontà, ve lo possiamo garantire. Mentre per la diretta di Frigider state in una botte di ferro. Blue Beaters, give me a little sign, right? Inizia a elevare. Inizio a levare allora nell'appuntamento di quest'oggi, mercoledì 17 di gennaio, in rigorosa diretta per queste due ore di Frigidaire. Permettetemi di ricordarvi le nostre coordinate per gestire l'attimo anche quest'oggi. Un numero di SMS che, come ogni giorno, risponde all'indirizzo al numero 338-6171-300. È una capace casella di posta elettronica che invece risponde all'indirizzo ariel@radiorockfm.com. Contattatemi tra un quarto d'oretta buona, massimo una ventina di minuti. Da dopo il CD della settimana andiamo a vedere che cosa mi raccontate di bello o di brutto. Un bel po' di appuntamenti vi andrò a ricordare nel corso della puntata di quest'oggi e ovviamente inizieremo con i santi del giorno, che come al solito non possono mai mancare, non prima di esserci gustati. Razor, nuovo singolo di Linea 77, dal lavoro ormai prosumo pubblicato, anteprima che ci eravamo giocati già da qualche settimana. Linea 77, a tra poco con i santi del giorno. sheets, couldn't leave if I tried. I've been a model for life, touched every eye. From the day I was born, I've been moved like a pawn by the greatest of. Mother, Mother, The Bash Mood. Questo è Frigidaire fino alle 17 con un disc jockey detto l'Ariele Coso, che denota insomma un ottimo accento straniero, no? Mother the Bird Mood. Andiamo con i santi del giorno, veloci veloci che siamo già in ritardo. Anche quest'oggi una bella scaricozza di santi, come è giusto che sia per un 17 di gennaio che si rispetti, non è vero? UDJ Ariel e Marta sui tubi rappresenta i santi del giorno. Rullo di tamburi. Andremo a ricordare in questo 17 di gennaio Sant'Antonio, Venerabile Elisabetta del Sacro Cuore di Gesù, Beato Gamelberto, San Giuliano Saba, San Gennaro, detto anche Gennaro Sanchez del Gadillo, San Marcello, Venerabile Maria Antonia Lalia, Santa Neosnadia e Santa Rosalina di Villeneuve. Santi Speusippo, Elasippo, Melesippo e Leonilla. Complimenti. San Sulpizio il Pio e si conclude con San Teodosio I, The Great, il Grande. Lui invece è il chitarrista degli Strokes, risponde al nome di Albert Hammond Jr. e con il suo lavoro da solista ci andiamo a gustare Back to the 101.

chiamano The New Story e sono amici di Frigidaire, giovani ragazzi che passarono a trovarci qualche mesetto fa per raccontarci che il loro album sarebbe stato ristampato da una grossa casa discografica. Il tutto è avvenuto e quindi torniamo ad ascoltarli con il nuovo singolo che è intitolato More Than Life, lunga vita ai New Story. Prima di passare al CD della settimana, cosa che non faccio mai, ma quando, cioè, che voi facciate i precisini mi può anche andar bene, ok? Vi voglio bene, il rapporto è paritario tra me e voi, vi do i contatti, quindi, anzi, è giusto che facciate i precisini, ma non fatemi i precisini sui santi del giorno, ragazzi, ho le fonti ufficiali, vado in linea diretta col Vaticano quando do i santi del giorno. Caro Dan da Milano, allora mi sgrida, dice intanto San Marcello era ieri, però caro Dan, perdonami di dirti che San Marcello era sia ieri ed era un Marcello Papa, vedi quanto sto preciso, e sia oggi che era un Marcello Vescovo, quindi sono due Marcelli differenti. E per il Sant'Antonio di oggi devi dire che è abate, è vero, touché, caro Dan, hai ragione. Errata corrige, non era solo Sant'Antonio, Sant'Antonio abate. Poi i precisini sui santi del giorno, mister Trombetta, ti rendi conto? Va bene, questo vuol dire che state attenti, bravi, grazie, quante soddisfazioni, occupiamoci però del CD della settimana, The Cooper Temple Close, questo è il nome della formazione che vi stiamo presentando da lunedì e che faremo fino a venerdì, il disco è intitolato Make This Your Own e quest'oggi vi auguro un buon ascolto con la traccia numero 8 intitolata Take Comfort. Il CD della settimana. Such potential as a lover, but I guess I had my hands full with myself without another. To occupy my fancies, to take root amongst the woods. Hell, I shouldn't. Thank you. traccia più tranquilla rispetto alle altre che vi avevamo proposto fino ad oggi. È la numero 8, intitolata Take Comfort, dei The Cooper Temple Close, che scopro anche essere chiamati dagli amici TCTC, perché le iniziali sono quelle. The Cooper Temple Close. Torneremo ad ascoltarci un'altra traccia di Make This Your Own domani, sempre in questo orario per quanto riguarda il pomeriggio di Frigidaire, oppure domani mattina all'interno del Morning Rock Show. Come al solito Rock FM, dopo il CD della settimana, una bella novità, vi offre una perla dal passato, quest'oggi targata Motley Crue, Piece of Your Action. A tra poco con i vostri contatti, 338-6171-300, l'SMS, aria@radiorockfm.com. Motley Crue, Piece of Your Action. Per l'appunto è il titolo della canzone. Oh oh. Allora, diamo inizio all'interazione salutando, prima ho salutato i precisini, il reparto precisini all'ascolto, adesso vado a salutare il reparto ti do un dito ti pigli il braccio, vero Claudia? Ce li anche tu i radioascoltatori così? A te sono bravi? Se gli dai erditino non si pigliano tutto il braccio. Il tagliando com'è andato ieri? Tutto a posto? Sì, dai, tutto a posto. Mi preoccupavano, abbiamo detto che facevi il tagliando. Non, cioè, così un tagliando generale. Va bene, ok. Dicevo, seguo il filo e poi vedo Claudia, vado nel pallone, non riesco più a dire quello che volevo dire. Andre da Genova commenta: con il 2007 hai ripristinato il CD da scongelare, quindi per il 2008 possiamo sperare di rivedere sul sito il Critica Tutto e Classifica Tutto. Oh, non si accontentano mai, capito? Ci dai il disco da scongelare, pronti a chiedere dell'altro. Bravo Andre da Genova, ci pensiamo. Tra l'altro era già quasi pronto. E invece Claudia, guarda che tenera la mia radioascoltatrice Eli, che si fototessera con Ariel a mano in mano. Che detta così suona anche un po' strana, però puoi vedere che mi ha inviato un JPEG con l'Ariel a mano. L'Ariel non il disc jockey, quello che conoscete voi, l'Ariel quello che serve per pulire. Cosa si pulisce con l'Ariel? I panni? Un detersivo, ma per piatti o per panni? Per panni. Per panni anche, sai, secondo io me. Neanche io non mi sono mai interessato più di tanto. Ma ringrazio Eli, grazie mille. Ti metto tra i fototesserati. Ho foto di gente con i frigoriferi, ho foto bizzarre di tutti i tipi, ma con l'aria e la mano in mano effettivamente oggi mi mancava. Non ci manca invece il buon rock and roll, come sempre, 24 ore su 24, se il computer lo fa partire. The Answer, nuovo singolo per loro, questa è Come Follow Me. Skin. And disappear to an eye for skin. Frigidaire, qu'est-ce que me ne fotte à moi? Thinking about you, baby. Come live with me. The Twilight Singers, la meravigliosa Live With Me, la loro versione di Live With Me. Stiamo già per terminare la prima ora di diretta, qua il tempo veramente vola, il tempo cavalca quando siamo in diretta su Frigidaire. Ho qualche buffa notizia da segnalarvi e lo farò prontamente nella seconda ora della diretta di quest'oggi. Intanto vi accenno la possibilità di diventare rockstar ufficialmente con 9.000 sterline. Vi siete mai chiesti quanto potrebbe costare diventare una rockstar? Se è solo per una settimana, con 9.000 sterline potreste cavarvela. Vi segnalo anche un sito e poi ne parliamo con calma nella seconda ora: www.rockandrollfantasycamp.com. Il tutto nella prossima ora di Frigidaire, che intanto termina, come è giusto che sia, con la nostra rock shock della settimana in alta rotazione, la novità targata Daughtry con il brano It's Not Over. A tra poco. I was blown away, what could I say? It all seemed to make sense. You're taking away everything, and I can't deal with that. I try to see the good. and I cannot wait. I'm wasting too much time being strong, holding on. Can't let it bring us down. My life with you means everything, so I won't give up that easily. I'll blow it away, blow it away. Can we make this something good? Well, I try to do it right this time around. Let's start over. I try to do it right this time around. It's not over. Cause a part of me is dead in the ground. This love is killing me. But you're the only one. It's not over. Con le loro chitarre e le loro splendide riletture dei classici del rock. Rodrigo e Gabriela, genio e passione. Rodrigo e Gabriela, nei migliori negozi di dischi. Alternight, ippodromo delle Muline, parco delle Cascine, Firenze. Ogni venerdì la sola alternativa. Quattro piste a base di rock, goth, drum and bass, techno. Venerdì 19 gennaio, Demons at Play con Roberta De Verdena e Davide Accorsi. Ingresso 5 euro. Alternight, ippodromo delle Muline, parco delle Cascine, Firenze. Yeah. Lewis, the ball, and the Leaks. Dig it, honey. Giulia Dandalix, così inizia la seconda ora di diretta di quest'oggi con Sticky Honey. Questo è sempre Frigidaire su Rock FM con l'Ariele e Mister Trombetta. Allora, ci siamo lasciati prima della Rock Shock dicendovi, segnalandovi questo sito internet www.rockandrollfantasy.com. Se stavate cercando di diventare rockstar bevendo, drogandovi e suonando con i vostri amici in sala prove, mollate tutto, perché in realtà basta avere 9.000 sterline e almeno per una settimana mi diventate rockstar, ma coi controfiocchi, cioè non una robetta così. Si chiama per l'appunto Rock and Roll Fantasy Camp. Se andate sul sito trovate tutte le informazioni. Invenzione di questo intraprendente signore che arriva da New York, che risponde al nome di David Fischoff, che ha dato vita a questo Rock and Roll Fantasy Camp, una sorta di corso introduttivo al rock and roll per abbienti e appassionati. Se andate sul sito internet scoprite che questo Rock and Roll Fantasy Camp in realtà non è una passione, cioè non è una roba buttata lì così. I vostri maestri potrebbero essere, cioè vi aiuteranno a diventare delle rockstar, un certo Paul Stanley dei Kiss, oppure un certo Brian Wilson dei Beach Boys, oppure che ne so, Mickey Hart dei Grateful Dead, un Bret Michaels dei Poison, un certo Steve Vai potrebbe aiutarvi a imparare i primi accordi sulla vostra sei corde, ancora Dickie Betts degli Allman Brothers, Scott Ian degli Anthrax e ancora tantissimi, Spencer Davis, Bruce Kulick dei Kiss, anche lui qua, gente dai Doobie Brothers, dai Bad Companies, insomma una marea di rockstar appoggiano questo progetto Rock and Roll Fantasy Camp. Allora, voi date 9.000 sterline e avete alcuni di questi maestri ad aiutarvi in questa settimana. Dopodiché, che si fa? Si fa una bella registrazione, come è giusto che sia. Dove andiamo a fare questa registrazione? Ma si potrebbe andare agli Abbey Road Studios? Perché no? Sarebbe carino. E infatti ci andate. Non solo, dopo che questi signoroni del rock and roll vi hanno insegnato qualche dritta, dopo che siete andati a registrare questa demo, questo disco all'Abbey Road Studios a Londra, Beatles, quelle robe lì, insomma, studio più famoso del mondo, poi giustamente bisognerebbe rodare il tutto in un live set e allora andiamo al Cavern Club, altro storico locale. E non solo, una volta che siamo al Cavern Club, vogliamo gemmare con qualcuno? Cioè, si suona insieme con qualcun altro? Ma sì, dai! E sapete chi vi viene offerto? Jack Bruce dei Cream. Cioè, ragazzi, mollate tutti i mutui che avete aperto e raccimoliamo al volo 9.000 sterline. Non si può non partecipare al Rock and Roll Fantasy Camp. Tra l'altro, ripeto, sul sito, che è semplicemente rockandrollfantasycamp.com, ci vedete tutto quello che viene offerto da questo campo del rock and roll, e vi potete gustare anche un set di fotografie niente male. Qui tra l'altro salta fuori anche il cantante dei Twisted Sister, e lui per forza con dei signori nessuno cantano insieme, si fanno le foto, doveroso autografo, cioè insomma vi ho dato 9.000 sterline, ovviamente l'autografo ci scappa. Niente male, niente affatto male, ragazzi, se divento ricco io un giretto al Rock and Roll Fantasy Camp me lo faccio. E voi? A proposito di Cream, buon Jack Bruce, andiamocelo ad ascoltare con I'm So Glad. Ah sì, io se gemmo con Jack Bruce faccio I'm So Glad, sì, mi piace. I'm so glad, I'm so glad, I'm glad, I'm glad. Jack, falla bene questa ripresa, eh? Ho visto che l'hai suonata male. Non mi sembravi convinto. Più convinto, dai! Mastodontica musica di Rock FM. La mastodontica buona musica di Rock FM. Cream, I'm so glad. Nel corso dei prossimi 20 minuti andremo anche a affrontare il disco da scongelare. Tanta festa con Led Zeppelin. Intanto devo assolutamente fare una segnalazione che in realtà giace nella mia casella di posta elettronica già da ieri. Purtroppo non ho fatto in tempo tra una cosa e l'altra a segnalarvela. Era il fedelissimo Johnny che vi consigliava un sito. Lui mi dice, scrive: sono certo del fatto che tu sappia chi è il buon Chuck Norris, ma non del tutto certo che tu sappia che esista un sito particolare a lui dedicato. In realtà Johnny, conosco questo sito perché viene spesso e volentieri utilizzato da dei colleghi di un'altra radio ben più grossa della nostra, come d'altra parte tutte le altre radio. Penso di grandezza, ma di grandezza fisica, perché di grandezza spirituale siamo più grandi, noi lo sappiamo. Il sito è http://welovechucknorris.blogspot.com. Ripeto, welovechucknorris.blogspot.com, e trovate alcune delle massime legate che, ripeto, molto probabilmente ricordate anche da quest'altra trasmissione radiofonica che va in onda sul network di 105, all'interno dello Zoo di 105. Spesso e volentieri leggono queste massime dedicate a Chuck Norris. Grazie Johnny in ogni caso per avercelo segnalato. Altre segnalazioni, già che ci sono, se questa sera volete ascoltare della buona musica italiana, ho degli amici di Frigidaire, ovvero i Marti, che sono passati a presentare il lavoro a Made Bad qualche settimana fa, che questa sera presentano dal vivo il loro nuovo album al Circolo Magnolia, per l'appunto qui a Milano. Quindi segnalazione che assolutamente devo fare per gli amici di Frigidaire. Ciao Ariele, ma a Rock Fantasy Camp ci sono pure le groupies? Quasi quasi mollo il mutuo per la casa e parto. In realtà no, non si parla nella presentazione, non si parla di groupies. Però se il corso è fatto bene bene, effettivamente qualche groupies dovrebbe girare, eh. D'altra parte 9.000 sterline, senza offese, però dico, 9.000 sterline, il servizio è completo. Senza groupies non c'è rock and roll, no? Si chiamano Audioslave, questa è Revelation. hanno bisogno di Fantasy Camp, Rockstar lo sono già da soli. Audio Slave, cioè hanno dedicato la vita a diventare rockstar e ce l'hanno fatta. Revelation, nuovo singolo. Sempre a proposito di rockstar, questa è con la R maiuscola. Andrei a occuparmi dell'appuntamento con il disco da scongelare. Che cos'è? Il disco da scongelare è un lavoro che noi della redazione di Frigidaire, e in realtà per cultura generale chiunque può definire questi lavori che scegliamo pietre miliari della storia del rock. Esempio lampante è il disco col quale abbiamo iniziato, ovvero Led Zeppelin 2, un must, come tutti i lavori dei Led Zeppelin, per chi ama il buon rock. Lavoro che vi presentiamo da lunedì al venerdì in 5 tracce, evitando i singoli, con il duplice obiettivo o di farvi tornare voglia di ascoltare un vecchio disco che magari tenete lì da qualche parte nell'armadio a prendere polvere, così gli facciamo dare un'altra bella pulita e ve lo ascoltate in questi giorni, oppure se non lo possedete, se non li conoscete, farvi venire voglia di acquistare uno dei dischi che non può assolutamente mancare nella vostra discografia personale. Citiamo spesso e volentieri la data di pubblicazione di questo lavoro, 1969, i Led Zeppelin, sotto la produzione del buon Jimmy Page, danno alle stampe Led Zeppelin 2, 9 meravigliose tracce, le più celebri sono sicuramente la prima, Hula La La Love, Heartbreaker, la traccia numero 5, poi c'è la mastodontica Moby Dick, traccia numero 8, e altre tracce meravigliose, quelle che vi stiamo presentando giorno dopo giorno. Io semplicemente proseguo nella tracklist di Led Zeppelin 2 e quest'oggi vi auguro un buon ascolto con la traccia numero 4, si intitola Thank You, gustatevela tutta. The sun refused to shine, I would still be loving you. When mountains crumble to the sea, there would still be you and me. Today my world, it smiles. Your hand in mine, we walk the miles. Thanks to you, it will be done. For you to me, I'm the only one. I'm a ten. Happiness, no more to say. the sun refused to shine, I would still be loving you. Mountains crumble to the sea, there will still be you and me. Eh sì ragazzi, è uno sporco lavoro, ma qualcuno dovrà pur farlo. Il mio di lavoro è quello di portare il rock and roll nelle vostre orecchie. E permettetemi di dirvelo, è un piacere. Led Zeppelin 2, traccia numero 4. Thank you! Ovviamente, targata Led Zeppelin, appuntamento con loro rinnovato a domani. Che piace, è da lunedì che passando il disco da scongelare mi si svolta la giornata, è incredibile, guardate, a volte il potere del rock and roll è anche questo. Mentre vedo che alcuni di voi sono stati gettati nello sconforto dalla notizia del Rock and Roll Fantasy Camp, o meglio, c'è Bonnie che non ha mica ben capito come funziona la cosa. Allora Bonnie, tranquillo, rockandrollfantasycamp.com, vai su internet, ti guardi bene di cosa stavamo parlando, spendi 9.000 sterline e diventi rockstar per una settimana, e tra gli altri, come tu commenti, c'è anche Steve Vai che ti fa da tutor. Mentre mi sentirei di sconsigliare al buon Dave Hu di convertire il suo mutuo della casa, che dice, io vabbè, prima di tutto dice, vado stasera a sentire i Marti, e fai bene, i gusti della buona musica italiana consigliata da Rock FM. E comunque, ma chiede, ma sto Rock Coso Camp, il vitto e l'alloggio sono compresi? Perché se converto il mutuo della casa mi serve un posto dove dormire. Allora caro Dave, sono quasi certo che per quella settimana vitto e alloggio è compreso, è per il resto della vita che mi sa che insomma dura una settimana sta roba, non è che poi puoi star lì vita natural durante. Eh no ragazzi, io vi ho pagato una... No, no, non funziona così. Quindi caro Dave, prima di convertire il mutuo pensaci un paio di volte, mica che poi te la prendi con noi di Frigidaire, eh? Non voglio alcun tipo di responsabilità. Ah no, me ne lavo le mani. We'll be right back. chiamano Interpol. E questa è PDA, 16 e 24 minuti primi nella diretta di Frigidaire di quest'oggi. Stavo pensando, vi invito sempre a vedere concerti di buona musica italiana, non vi invito mai ai miei. Non è vero, vi invito sempre e ne approfitto per invitarvi ancora. Questo venerdì suono con i Pay, con lo spettacolo Elettro 80 al Mulligan's Pub di Ortimino Montesperto in provincia di Firenze. Invece l'altro appuntamento che vi ricordo è sabato prossimo, dove torno a suonare nella prestigiosa cornice del Nautilus di Cardano al Campo, in versione elettronica, quindi con tutta la banda, non Elettro 80, e con ospite speciale il buon Olli Prezzemolino The Fire, che tornerà a trovarci, ogni tanto fa incursioni nei nostri concerti. Sarà così sabato prossimo al Nautilus di Cardano al Campo. Vediamo di fare qualche altro saluto veloce che sono in ritardo. Allora, via mail sicuramente devo salutare Maria, il buon Antlon, Antonella, Edo, Jacobs. Via sms invece c'è Mattia da Firenze, contento del nostro disco da scongelare. Ragazzi, adesso devo inventarmi qualcosa per settimana prossima, per mantenere alta la qualità. Saluto anche il buon Danny dei Jolly Rocks, Pippo da Firenze, tutti quelli che stanno continuando a contattarci via sms piuttosto che via mail. A tra poco, nell'ultima mezz'ora di Frigidaire, Little Sister, loro si chiamano Queens of the Stone Age e Frigidaire roccheggia così. Sempre dentro la Peugeot, è un DJ,

condition bizarre, bizarro, flows with more afro than Rallo. Coming through a fork in the road, which way they go? Just follow. Rap is the legend, niggas are Sleepy Hollow. In fact, I'm a hard act to follow. I go for Jolo, Bogart, and coming on through. Niggas is like, oh my god, not you. Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with. Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with. Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with. Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with. Wu-Tang Clan è nothing da facca. Tom Morello / Wu-Tang Clan per iniziare l'ultima mezz'ora di Frigidaire di questo mercoledì pomeriggio. Ovviamente appuntamento tra pochissimo con il nostro viaggio targato 3x1, tre brani senza alcun tipo di interruzione, selezionati sotto la lettera M del nostro archivio. Ma ora è tempo di Clutch, The Elephant Riders. Cause all my high around. sono i Clutch a portarci all'appuntamento di quest'oggi del nostro 3x1, tre brani senza alcun tipo di interruzione, tre brani quest'oggi tutti di buona musica italiana, buona musica piemontese, arrivano da Cuneo, rispondono al nome di Marlene Kunz, per gli amici Marlene, punto, e questo è il 3x1 di quest'oggi. 3x1. Questa è la verità. spesso e volentieri sono stati ospiti nei nostri studi per raccontarci le nuove produzioni. L'ultima volta sono stati in realtà anche ospiti di Frigidaire. Terminiamo la tripletta targata Marlene Kunz con Cara e la fine, iniziata con Cometa, e in mezzo ci siamo gustati L'odio migliore. Ho un ultimo brano a mia disposizione per quest'oggi, velocemente il tempo per ricordarvi gli appuntamenti del weekend. Venerdì sera mi troverete al Mulligan's Pub di Ortimino Montespertoli per la rappresentazione di Federico III Il Destino in Fausto e I Classici dei Pei in versione per la prima volta in terra toscana Elettro 80. Sabato sera invece sarò con Max De Rio a selezionare del buon rock and roll a Massa Carrara Cinquale dagli amici del Baraonda. Per quanto riguarda gli altri appuntamenti, nella puntata di quest'oggi, questa sera, se volete gustarvi un po' di buona musica italiana, al Circolo Magnolia ci trovate gli amici Marti. Per il resto, l'appuntamento con Frigidaire è rinnovato a domani, sempre qui su Rock FM dalle 15 alle 17. Si conclude con la novità targata Papa Roach, il brano è Forever. Grazie per essere stati con noi, a domani. In the brightest hour of my darkest day, I realized what is wrong with me. Can't get over you, can't get through to you. It's been a helter-skelter romance from the start. Take these memories that are haunting me, of a paper man cut into shreds by his own pair of scissors. He'll never forgive her, he'll never forgive her. Because days come and go, but my feelings for you are forever. Because days come and go, but my feelings for you. Sitting by a fire on a lonely night, hanging over from another good time with another girl, little dirty girl. You should listen to this story of a life. You're my heroine in this moment. I'm lonely, fulfilling my darkest dreams. All these drugs, all these women, I'm never forgiving this broken heart. ascolta.